A Radio Città ti dico sono le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. E noi rispondiamo immediatamente all'appello, ben arrivati, ritrovati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro ovviamente c'è il nostro indispensabile Bolognese Volante. Buon pomeriggio a lei, ben ritrovato anche questa domenica. Buon pomeriggio e anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Tutto bene, vero? Sì, siamo ritornati. Tutto benissimo, Paoletti. Perfetto, siamo ritornati dopo una settimana. E ci sono tantissime uscite discografiche di cui appunto parlare. Abbiamo spulciato e dato il meglio insieme alla sua famosa redazione, insieme a noi della redazione abbiamo estrapolato il meglio e devo dire insomma questa settimana è stata un po' ardua. Vorrei anche vedere che estrapolasse il peggio però, Paoletti, eh? No vabbè. No non sarà così, certo. Vorrei anche vedere dato quello, il meglio, dai, e quindi insomma su via orsù c'è qualcuno che insomma no, che non protesta, faccia battute. Quindi ecco, va bene. Allora siamo entrati di fatto alla puntata numero 17 di domenica 30 aprile 2023 e questa è Easy Pop, il nostro salottino domenicale dove parlare e conversare di musica e soprattutto dare uno sguardo a cosa succede nella musica italiana. E direi di cominciare immediatamente. Cominciamo. Con un artista che si chiama Fedele, è praticamente il nome d'arte, lui in realtà si chiama Gianluca Fedele proprio di cognome, in arte Fedele, cantautore, nasce a Roma l'11 febbraio del 2000, quindi giovanissimo direi. Ha iniziato a scrivere le musiche all'età di 13 anni e poi entra un po' nei circuiti appunto musicali, quelli classici, arrivando al Cantagiro e poi ad Area Sanremo. E quindi ha già inciso alcune selezioni musicali che sono andate abbastanza bene perché sono state distribuite anche da Spotify. Sì, non cominciamo, Paoletti, che dopo dobbiamo disinfettare i microfoni. Sì, esatto, quindi andiamo avanti e quindi è arrivato fino a questo nuovo singolo che andiamo immediatamente ad ascoltarci, si intitola Perfetta, lui è Fedele. Ricordo quei momenti quando stavamo insieme, ti scaldo su di me, ti sciogli come la neve. E quando siamo soli accendi quelle candele, perché in fondo ti vergogni e non vuoi farti vedere. Ti passo la mia mano sopra la pelle d'oca, che sei rimasta senza fiato e non mi parli da un'ora. Ma le parole qua non servono, il sorriso ti dona. Se prima mi fissi negli occhi, dopo ne voglio ancora. E noi siamo vicini accanto a questo falò di emozioni che rimangono per sempre però. E fino a quando non so, e no non dirmi di no, che se ti dico di restare giuro non me ne andrò. Perché sei perfetta, luce nella stanza che ti rende diversa. Tu sei sempre più bella di quanto sarà dura, giuro non mi interessa. Mi mandi su DG e poi mi gira la testa. Orbita da Michelangelo, tu sei la voce nelle canzoni che poi canterò. Le forze che rimangono, tu sei tutto quello che si possa sognare. Scriviamo una storia sopra questo finale. Stessi sopra un prato illumini queste sere, noi fermi a guardare mille stelle cadere. Dentro la tempesta tu hai portato la quiete, le voci dentro la mia testa tu le hai messe a tacere. Ti ho ancora impressa quando ti sei messa in bocca la sigaretta. Dentro la cameretta rimanevi su di me indossando la mia maglietta. Stringendomi le mani ti sentivi protetta. E questa luna piena che mi parla di noi, e se non sei con me io forse non dormirò. Temi di partire mai, forse ancora non vuoi, ma ti giuro che io questo un giorno lo cambierò. E te che vuoi farci? Quando sei arrabbiata preferisci sfogarti. Odi il zitto a pamarsi sopra il pavimento, noi con tutti i vestiti sparsi. E sai che quando mi guardi hai gli occhi come cristalli. Perché sei perfetta, luce nella stanza che ti rende diversa. Tu sei sempre più bella di quanto sarà dura, giuro non mi interessa. Mi mandi su di giri, poi mi gira la testa. Scolpita da Michelangelo, tu sei la voce nelle canzoni che poi canterò. Le forze che rimangono, tu sei tutto quello che si può. Fedele con la sua perfetta, primo brano di questa puntata numero 17 di domenica 30 aprile, Paoletti. Esattamente così, e poi domani si festeggerà la giornata del primo maggio, dove insomma ci saranno tantissimi concerti, ci saranno insomma un po' di festeggiamenti in lungo e in largo, ci sarà anche la nostra emittente insomma che sarà impegnata collegata con la Piazza Maggiore, concerto del primo maggio. Esattamente, quindi insomma ci saranno personaggi interessanti, anche indie, tra l'altro ho visto la stessa Giallo e poi tanti altri, adesso non ho sotto mano appunto tutto il carnet, insomma tutta la lista, però insomma me la procurerò, la mia fantomatica ovviamente redazione riuscirà sicuramente a darmi una mano tra poco, insomma chiedo ufficialmente di passarmi un po' la lista. Non vedo l'ora che gliela passino. 333 180 94 94 per i vostri short message, risponderemo a tutti, mentre a questo punto direi di passare da Fedele ai Noveis, che è una band, rock band indie italiana nata alla fine del 2001-2002 super giù in provincia di Vercelli, e insomma hanno macinato di concerti e poi soprattutto di strada in lungo e largo in Italia. Loro praticamente spaziano dal rock pop italiano al blues fino all'elettronica. Questo è il loro nuovo singolo che appunto hanno fatto uscire da poco e si intitola Parlerò. Vi facciamo partire? Assolutamente. Via! Seduto ad aspettare qualche segnale, è tutto chiuso e non trovo la chiave. Si è fatto tardi, ma prima o poi mangerò. Le mie idee in fondo a questo bicchiere, così profondo che si può anche nuotare. Sto andando alla deriva, così naufragherò. E poi qualcuno che mi chiama, mi dice che mi salva, mi prende per la mano stringendomi, ed è una luce in una sera, qualcosa che si avvera. Rompo un silenzio buttandomi e parlerò con un volto che non so. Parlerò di tutte le guerre che ho. Parlerò un tuffo a corpo. Vuoi sapere che cos'è che mi pare? Non aspettare proprio questa la chiave. Affonderò e che importa se non toccherò? È proprio lei che mi salva, mi aiuta e mi calma. Cerco la sua mano fidandomi di quella luce in una sera, una cosa che si avvera. Non temo più il silenzio voltandomi. Noveis, parlerò, adesso ce ne parla invece Paoletti. No, ho già parlato di loro, band, lei è distratto, devo muovere contatto di loro. Pulsori, non ho tempo di ascoltare sempre ciò che dice perfettamente. Giustamente, bene. Ripetiamo che questa band piemontese è attiva da ormai 20 anni, anche lei insomma ha macinato tantissimi concerti. A proposito di concerti, vado a segnalarvi che qui in Piazza Maggiore ci saranno così l'appuntamento col concertone del primo maggio con artisti interessanti come Rancore, gli Extra Liscio e ancora i Big Mama, i Cleveland Gold, Roberta Giallo e Davide Shorty tra i nomi più appetibili, ma ci saranno anche nel cast Alberto Bertoli, Marta Tenaglia. Che lei intervisterà Paoletti? Sì, spero appunto di riuscire in questa intervista che è già fissata. E poi ci saranno ancora Andrea Badia Quartet, i Berlino e poi i musicanti di San Crispino. Spero di non aver dimenticato qualcuno, ma insomma. Può sempre dare la colpa alla sua redazione musicale. No, va bene, però è poco professionale, in effetti. No, spero di non aver appunto saltato qualcuno. Del resto, insomma, voi venite in piazza, appunto, se verrete troverete tutti questi artisti, sarà una grande festa e quindi vi aspettiamo, perché c'è anche lo zampino di Fujiko. Bene, detto ciò, possiamo andare avanti con la prossima proposta. Vado a segnalarvi, dopo Fedele e Noveis, Davide Fare, tutto attaccato, scritto proprio così, Davide Fare, che poi è un po' particolare. Comunque è un artista solista nel panorama appunto italiano vicentino, figlio d'arte, fin da piccolo sviluppa una forte passione per la musica e poi inizia a suonare sia chitarra per poi passare al contrabbasso, quindi chi più ne ha più ne metta. E poi via via insomma comincia a fare un po' la musica pop e a vincere il premio come miglior solista Vicenza Rock Contest, che lo porta poi a suonare via via insomma in altri contesti e anche a lui insomma ai vari contratti. Vogliamo ascoltarci insieme il suo singolo, si intitola È domani. Questo è Davide Fare, ascoltiamolo. Che cosa succede al mondo? Che cosa succede intorno? Uomini potenti con pensieri differenti uccidono la gente. Accade che in un secondo la notte diventa il giorno. Gli occhi che si aprono, niente più si vede, niente più si sente. Comincia una nuova guerra, una lotta infinita ed eterna. Mani che si cercano, voci che poi pregano, perse tra la gente. E noi come esseri umani sfidiamo comunque il domani, correndo come pazzi, sfuggendo da quei razzi. Ma intanto il domani è già qua. E domani, e domani, e domani che sarà? E domani, e domani, e domani si vedrà. Nell'incertezza di questi giorni aspetto solo che Dio ritorni. E come in cielo e così in terra, che ci sia pace e meno guerra. Che con un colpo si può morire, in un secondo tutto può finire. Tu prega per noi e per la gente che soffre, che muore così innocente. No, non si può continuare così, no. Andare avanti così non si può. Serve rispetto tra gli esseri umani. E no, quanto dolore così non si può. Ad ogni guerra io dico no. Se con futuro migliora il domani. Davide Fare e domani sul piatto numero 2. Proprio così. Allora, abbiamo ascoltato anche Davide Fare, scritto tutto attaccato, mi raccomando, e domani il suo nuovo singolo, perché il precedente insomma ha già avuto un certo riscontro e quindi noi andiamo avanti e abbiamo conosciuto anche questo nuovo artista, appunto Davide Fare, che poi tra l'altro, visto anche le foto del book fotografico, insomma proprio per come personaggio ci sta veramente. A questo punto invece noi parliamo di Bordeaux, che è un nuovo artista che è ci propone questo L'alba di un giorno, Bordeaux. Ah, lo faccio partire così? Lo facciamo partire così. Ah, ok. Se tu fossi mille persone a sentire tutto quello che c'ho da dire, pagherei un attore, un narratore e anche la televisione. Ma anche se volessi non saprei come fare, che poi mi blocca, non riesco a parlare. anche se volessi non saprei cosa dire, che poi mi impallo e non riesco a reagire. Se tu fossi mille persone, chiederei a tutti quanti adesso che cosa dire, ma a te non voglio chiederlo, se no sai già tu come va a finire. Ma anche se volessi non saprei come fare, che poi mi blocca e non riesco a parlare. Anche se volessi non saprei cosa dire, che poi mi impallo e non riesco a reagire. Sì, ma tanto già lo sai che sei tu la prima e poi non devo dire sempre che tanto veste come una storia ma senza lieto fine. Siamo come le rime, siamo bene insieme, è la fine di un giorno, la fine del mondo. Rimani con me solo per un secondo, senti il tuo cuore, butta l'anima al vento, aspetta un momento, magari più tempo. È la fine di un giorno, la fine del mondo, amore io e te siamo l'alma di un giorno. Eccolo qua, Bordeaux, l'alba di un giorno. Parla di una persona che in qualche modo vorrebbe esprimere i suoi sentimenti, ma si sente alquanto impacciato. Questo è il praticamente il succo di questo pezzo per la SPC Sound che abbiamo appena ascoltato, appena uscito, e devo dire si sa molto poco di questo cantautore, che praticamente non dà troppe notizie di sé, però questo è il suo singolo e abbiamo imparato a conoscere una voce nuova. Detto ciò, direi di andare con la prossima. Mi aiuti lei, perché questi nomi sempre più strani, sempre più complicati, io insomma questo devo, è uno dei meno complicati che abbiamo certo, visto. Certo, ma lo dica Frida lei. Frida con Scacco Matto. Frigia o Frida? Frida, perché Frida. C'è la D. Non lo so, perché c'è la Y lunga, perché ci sono due. Senta, io c'è la detto, I lunga. Io leggo l'italiano. Va bene, l'italiano cosa ci presenta? Scacco Matto, Frida. Scaduto il tempo, ora te ne vai. Tu sei la rotta dei miei guai. A tempo perso, forse m'amerai. Tra secoli di piogge, noi. Fai nuove mosse, lo so, oh mia regina, però crolla il mio ragno così. Oh baby, cosa mi aspetto da te? Cosa ti aspetti da me? Se tutto crolla, al cuore. Tra le tue gambe ancora tornerei. La tentazione che io vorrei. Abbatti i sogni come un killer che sa già che all'alba nuovo un'altra preda troverà. Per te l'amore è un gioco, vincerai. E le tue unghie sulla schiena Graziano, nella follia di un'altra scena cederò. Dai, giochiamo ancora, sono qua. Fai nuove mosse, lo so, oh mia regina. Frida, Scacco Matto, un brano quasi dance, Paoletti. È anche rock, perché è il nuovo singolo della band catanese Frigia, che dà il titolo Scacco Matto al loro nuovo album. Una band formata a Catania nel 2003, composta da Thor, che sta alla voce, poi Tano, Tanzmania, Giuttari, e Luke, Anthony, e infine Domenico Cottone e Edoardo Bonanno alla batteria. Bene, insomma, questi fanno parte appunto della band Frigia e non sono nuovi a appunto successi musicali, tra i quali Ruggine, che suonammo un po' di tempo fa se non sbaglio, e a questo punto insomma il nuovo singolo, perché è poi abbinato a un album se non sbaglio, e insomma non ci sono dispiaciuti assolutamente, un buon pop che si lascia ascoltare e che noi abbiamo proposto a voi, perché siamo sicuri, siamo certi che insomma nel nostro FM insomma non diciamo non avrebbe disdegnato. Esattamente così. A questo punto cosa abbiamo, regia? Adesso abbiamo uno dei suoi brani sperimentali, perché questo è veramente, si osa qua, osiamo, abbiamo ogni tanto. Anticorpi con Zero Like. Quello che sei, basta che smetti di essere quello che sei. Anticorpi, Zero Like. Sono indeciso, Paoletti, se mettere questo brano nella mia compilation dance di Ferragosto. Assolutamente, ci ha conquistati dal devo primo pensare, dal primo ascolto. Zero Like è il nuovo singolo di Anticorpi, che praticamente è appena uscito, se non sbaglio, da qualche giorno. È una band techno pop synth punk che unisce la musica elettronica e veloce, intensa e ballabile, come vi sarete accorti, a nuovi esperimenti. Infatti loro dicono: vogliamo cantare il domani, perché appunto parliamo del presente e del, con la grammatica del futuro. Questa è la loro dichiarazione, che noi prendiamo atto che è così. In effetti è cantato poi tra l'altro in italiano, è un testo distopico a dire poco. Beh, ma io ho scoperto, sentendo una radio avversaria, che c'è una nuova tipo, un nuovo tipo di dance che canta in italiano. Sì, sì, è proprio così. Sì, sì, sì, questo è il nuovo. Non è come negli anni della Spaghetti Music che si cantava in inglese. Adesso no, si canta proprio in italiano. Eh beh, noi prendiamoci quello che è nostro e prendiamo atto che c'è anche la nostra lingua, che è poi sempre più bistrattata. Ma esatto, che suona anche bene, perché no, insomma, un piccolo orgoglio possiamo prendercelo. Ecco, gli autori sono Arnaldo Guido e Giovanni Di Jacopo, e sono due di questa techno band Zero Like, appunto, e abbiamo ascoltato Anticorpi, quindi o viceversa, Zero Like e viceversa, Paoletti. Esattamente. Siamo così. All'ultimo brano, il tempo è volato. Ah, siamo già arrivati alla fine della prima parte. Allora lanciamo immediatamente la prossima, ad appannaggio di... Allora, qui abbiamo un Sophisticated Music che dedico a Simone. Si tratta di Ga e Vinci con Camelia, di cui dopo Paoletti ci parlerà. Assolutamente. Eccoci qua, si chiama Gae Vinci, nome d'arte di Gaetano Vinci, è un produttore musicale siciliano con sede però in Milano. Dopo aver prodotto musica con altri pseudonimi, dal 2010 su per giù ha deciso di firmare i propri lavori con il suo vero nome, non identificandosi quindi con un genere musicale ben specifico, ma praticamente stravolge e secondo i momenti, insomma, lui si avvicina alla dream pop, a sonorità più ambient oppure elettroniche o alternative in generale, e poi soprattutto nel suo studio ci sono vari artisti che passeggiano e quindi li cattura e li fa cantare nei suoi brani. Nella fattispecie questo Camelia, dove è stato girato un videoclip molto interessante, carino, è praticamente il debutto del suo nuovo album, che si intitolerà Lonely Ballads, col nome appunto di Ga Vinci. Camelia, questo è il primo estratto da questo album che uscirà fra un mesetto scarso, quindi bisogna attendere per la prossima. Nel frattempo ci gustiamo questa atmosfera davvero, come dire, un'anteprima Sophisticated Music per salutare giustamente Simone, giusto?

sogniamo insieme come facevi dopo scuola, che noi dormiamo bene insieme se le tue ciglia sono le lenzuola. Poi ti vedo e mi giro, magari non lo so, ho perso un po' colore, ma lo ritroverò. Smettere di ridere, fermare il tempo, e poi restiamo nudi sul tuo pavimento. Chiedimi come sto, non ti risponderò, perché fa sempre freddo qui dentro. E non dirmi di no, anche se partirò, che ti ricorderò lo stesso. Però se vuoi torniamo insieme come facevi dopo scuola, che noi dormiamo bene insieme se le tue ciglia sono le lenzuola. Tu che mi guardi dici che non sei più tu. Delco con noi, all'anagrafe si chiama Francesco Del Corona, classe 2001, cantautore, musicista e adesso anche produttore, iniziato a condividere le sue canzoni nel 2018, quindi recentemente. I suoi brani sono praticamente una miscela di sfoghi interiori, di emozioni forti. Così insomma scrive ciò che sente con qualche tocco di malinconia. Un cantautore molto tradizionale, vero, insomma, per quanto riguarda appunto la musica, la chitarra, i suoni, però ci è piaciuto nella sua semplicità, perché insomma ci vuole anche questo, un po' di leggerezza. A questo punto noi partiamo e parliamo di del prossimo artista. Minena ci presenta Io e Te. Occhi che sanno di vaniglia, ma che meraviglia di parole che mi scrivi dopo poche ore. Vista accettata l'amicizia, ma non ti facevo così interessato al disagio del mio stato. Viva, viva l'amicizia. Un brano trascinante questo qua di di Minena. Minena, praticamente qua a pronunciare i nomi, eh? No, perché poi bisogna pronunciarli degnamente, perché sennò no, si offendono tutti questi artisti. Se io la chiamassi Poletti, cosa direbbe? Sì, infatti, darebbe parecchio fastidio. Partecipa a uno stage musicale con Paola Folli, che insomma le fa da coach, così diciamo, nel maggio 2019, ma ancora prima, nel 2014, prende parte a uno stage di teatro con Cinzia Severino e poi di ballo, ma non solo, ancora prima ha partecipato con un successo nel 2015, se non sbaglio, a X Factor, raggiungendo la fase bootcamp, e quindi insomma andando molto avanti, e comunque già lì si è messa in luce, però con il nome di Alessandra Ragosini. Poi è cambiato il nome, una nuova vita, e poi insomma l'incontro con Paola Folli, già di Rotta su Cuba, se non sbaglio, e poi con altri nuovi produttori, il cambio del nome, e da adesso in poi è Minena. Insomma, tanti artisti poi così ritrovano una strada cambiando il nome, e così ha fatto la stessa Alessandra Ragosini, che insomma fa anche parte di un coro gospel, tra l'altro. Ha fatto bene. E ha fatto bene, devo dire, una bella voce e soprattutto una bella canzone che abbiamo ascoltato, dal titolo Io e te. Bello, mi è piaciuta. Adesso Paoletti? E a questo punto abbiamo la prossima, la vuole annunciare lei cortesemente? Ma quando mi fa annunciare i brani? Così, da oggi? Vabbè, Autoradio con Franco, fra parentesi, se posso essere. Quel profumo lo sentivo per le strade, prima ancora di sentirlo su di te. Un profumo di ricordi ingarbugliati, che non sai nemmeno se son tuoi. Io li ho rivissuti coi tuoi occhi, mentre tu li rivivevi con i miei. E a tua madre hai detto che era un gioco, ancora lo farei. Sì, lo sai che ancora lo farei. Quando farà freddo e sarò solo, io ti penserò. Sarà come ricordare un sogno antico, immaginare un altro tempo, un altro spazio intorno a me. Sarà un po' come ritornare. Giocare non puoi più, trovati una scusa per ricominciare. Già ti chiama il vento e tu che cosa fai? Resti ferma oppure corri e te ne vai? Na na na na, è un brano molto anni 70. Assolutamente, ed è voluto. È uscito questo singolo Franco, se posso essere franco, nel senso così di sincero, no? Questo, in questo certo senso. È il nuovo singolo appunto di questa band piemontese, che poi tra l'altro avevamo già incontrato in passato, Autoradio, che anticipa proprio il loro album con atmosfere vintage tra rock e indie, però insomma quei suoni anni 70, come lei appunto ha rilevato in questo caso, questa sorta di nostalgia canaglia, insomma, molto rassicurante. E che dire, che sono bravi e ci è piaciuto molto questa sorta di sound vintage, e l'abbiamo voluto condividere con voi. Autoradio, quindi erano loro con noi. A questo punto, regia, abbiamo Marco Grai, se non sbaglio, con Non ti scordar di me. Non si sbaglia, Paoletti. E allora andiamo con Marco Grai. We'll be right back. fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Fare anche a meno della nostalgia, che da lontano torna per portarmi via. Del nostro amore solo una scia, che il tempo poi cancellerà e nulla sopravvivrà. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare. Non ti scordar mai di me, della più incantevole. Se a vecchio abbiamo mai scritto un lieto fine, era previsto, sai, tradito. Forse anche stata un po' colpa mia, credere fosse per l'eternità. A volte tutto un po' si consuma, senza preavviso se ne va. Non ti scordar mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme e non un piccolo particolare. Non ti scordar mai di me, della più incantevole. Sia da chi abbia mai scritto Ebbene sì, era una sorta di cover per Marco Gray, sarebbe scritto Gray, però insomma l'abbiamo annunciato così. Invece è Marco Gray che debutta nel 2013 come artista del duo Marco e l'Ape, formato insieme alla pianista Emiliano Begni. E poi anni di emozione in Italia, coronate da un successo del singolo La triste vita di Luigi, con un ottimo successo di pubblico e anche grazie al video in versione cartone animato, che diventò insomma una cosa, come si dice, quelle cose che vengono virali. Virali, esatto. E poi il grande salto, perché lui si è trasferito a Londra e diventa solista, e poi insomma diverse esperienze musicali fino ad arrivare insomma a dei premi come Best International Music Award e il Best UK International Songwriter Award, fino ad arrivare al Festival Nazionale UK Songwriting Music Contest. La critica inglese definisce Marco, con quello che abbiamo ascoltato, la versione italiana di Sam Smith, quindi insomma elogi, soprattutto perché lui lavora all'estero più che appunto in Italia. Questa cosa ci ha colpito molto e abbiamo detto, beh, insomma, ci ha ricoverizzato in maniera non nostalgica la canzone di Giusy Ferreri, perché non appunto riascoltarla in questa versione, quindi non proporla e poi vedere, dare uno sguardo a cosa succede all'estero. Simpatica. Ai nostri artisti. Simpatica. E quindi insomma andava segnalata anche queste cose, perché poi noi si fa presto a criticare, no? Un artista, a vederlo suonare magari noi in non piazza. Critichiamo nessuno. In realtà insomma questo ci mette la faccia, nel senso che bisogna dare comunque il giusto tributo agli artisti che ci mettono la faccia, si mettono lì a suonare e cantano, non è da tutti, e quindi gran coraggio e soprattutto onore al merito. Detto ciò, salutiamo anche Marco Gray con Non ti scordar mai di me. La rimetteremo nei prossimi io giorni. Io direi Gray, non Gray. Gray. Non lo so, non c'è dato modo di saperlo. Lei lo pronuncia l'italiano. Gray, comunque Marco Gray non ti scordare. Di scivolare su bucce di banana. Spero di no, però insomma l'inglese, visto che vive a Londra, non lo so. Non sappiamo qual è la pronuncia. Lo chiederemo alle varie redazioni. A questo punto invece abbiamo Savana 7, Ho creduto in noi. Ascoltiamo. Thank you. io so sicuro che un giorno tornerai, ma stai tranquilla che hai fatto la tua parte, non sei come le altre. Vorrei sapessi che ho creduto in noi, vedo il sangue tra le dita senza di te, ma se questo è quello che vorrai, non ci potrò fare nulla. Cervello che sta contando tutti i giorni che sto lottando, ora la tua voce la sento appena, sento la mancanza fino alla sera. Ho scoperto che l'amore è una cosa seria, mi ricordo il giorno ti ho conosciuto, tu quei jeans io in tutto, il mio dolore che non si potrà calmare, un altro passo verso un mondo da rifare, ed io lo so che tu vai al posto di restare, se perdere o lasciare. Vorrei sapessi che ho creduto in noi, vedo il sangue tra le dita senza di te, ma se questo è quello che vorrai, non ci potrò fare nulla mai. Voglio starti accanto, sì sì sì davvero, nessuna parola può cambiare il desiderio. Ora sei partita ed io ti sento a stento, proverò a pensarti però sai dopo tremo. Eccoci qua. Savana 7, ho creduto in noi. L'inizio assomiglia per me, o ha delle assonanze moltissimo con un brano di Robert Miles. Assolutamente Voyage, sì. Voyage. Non era Children. Children, ha ragione, Children. Eccoci bravo. Qua, esattamente. Quindi non sono riuscito a reperirlo al volo perché ho avuto un problema tecnico. Ma non c'è problema. In arte si chiama così, Savana 7, ovvero sia Savan 7, può essere, ma, perché poi alla l'italiana. Fine Savan 7 mi piace di più. Comunque ho creduto in noi, il suo nuovo singolo per l'etichetta Rosso al Tramonto, nuovo singolo appunto di Davide Boncompagni, perché si chiama proprio così il ragazzo, Savana 7, il brano che parla di una storia d'amore finita per sempre, nella quale questo cantautore aretino appunto esprime una certa malinconia, e forse di qui appunto si attacca a Robert Miles, chissà, la malinconia di quegli anni, chi lo sa, non è dato a sapere. Noi rimarremo sempre con questi dubbi musicali, con questi dubbi amletici. Del resto salutiamo anche tutte le redazioni, invece gli uffici stampa che ci mandano appunto i loro suggerimenti. Facciamo questo appello: di quando un artista ha un nome così complicato, oppure c'è un numero vicino, non sappiamo se dirlo in inglese o in italiano, o pronunciare questo nome, insomma, oppure un artista preferisce così, però la fa nome troppo da... lunga, se la pronuncia, a me, insomma, quando andavo a scuola mi dicevano pronuncia come scritto, esatto, oppure mangia come parli, siamo mica una lezione di inglese qua. No, comunque lui è sotto il segno del leone, che dire di più di questo ragazzotto che è veramente giovanissimo, perché ha 21 anni, quindi in bocca al lupo per la propria carriera musicale, che pare già sia ben avviata, in quanto ha già sui suoi contatti lei su faccia... TikTok e poi su Facebook, su YouTube, eccetera. Lei faccia lo spelling, ci prenderà sempre. Benissimo, a questo punto abbiamo anche archiviato quest'altra proposta musicale, passiamo a Luca Maggiore e ci presenta Tattoo. Poi ti sei fatta prendere la mano e adesso sul tuo braccio è comparso un pellicano. Ti ho detto amore non ne fare più, detesto questa moda dei tattoo. Invece dopo un'altra settimana ti sei ripresentata con un drago sulla schiena. E fiera mi hai mostrato i tuoi polpacci, su uno c'è un delfino, sull'altro una balena. Mi hai detto amore so che non ti va, ma sto plasmando la mia nuova identità. Da tu tu tu tu tu, metà della tua faccia è blu. Da tu tu tu tu tu, e adesso chi ti bacia più? Da tu tu tu tu tu, c'hai le gambe, c'hai le braccia blu. Da tu, tu, tu, tu, tu, e adesso chi ti vuole più? Ti ho lasciata quando mi hai guardato in faccia e hai detto mi dispiace che il mio corpo non ti piaccia. Io ti ho risposto non ti è chiara la questione, non è che non mi piace, è che mi fa impressione. Lo sai che tatuandoti così, più che una donna sembri un quadro di Dalì. Tatu tu tu tu tu, metà della tua faccia è blu. Tatu tu tu tu tu, e adesso chi ti bacia più? Tatu tu tu tu tu, c'hai le gambe, c'hai le braccia blu. Tatu tu tu tu tu, e adesso chi ti vuole più? Sai che cosa c'è di buffo? Se io fossi il grande puffo ti desidererei, ma non essendo il grande puffo trovo non sia tanto buffo amarti per come sei. Ma che buffo questa storia del grande puffo, simpaticissima questa canzone. Sì, un po' quelle storie stile quasi alla blues, Baccini, quasi vero? Blues, ricorda sì, sì. Francesco Baccini, un po' così, insomma, simpatica, di questi. Sempre simpatici. Una scelta della sua fantomatica redazione musicale, immagino. Assolutamente, così il video ufficiale è ancora più divertente all'insegna del minimalismo, così insomma dicono. Luca Maggiore, classe 74, inizia a studiare pianoforte in tenera età e poi prosegue i suoi studi di canto e pianoforte. Forte, tra l'altro poi anche un turnista, perché dal 98 è corista nel tour di Mango, di Biagio Antonacci, di Marco Masini, di Fabio Concato e poi delle orchestre di Beppe Vessicchio per esempio e di Pino Caruso. Nel 2000 poi si classifica al terzo posto all'Accademia della Canzone di Sanremo e poi via via insomma ha inciso diverse cose insomma e ha prestato la sua lancia per altri artisti appunto come sottolineavo prima, tra i tanti appunto Mango. Detto ciò, regia, cosa abbiamo ancora? Volete, il tempo è volato. Ma è volato, io veramente, mi sembra di aver iniziato adesso, esatto, invece no. È l'ultimo brano, Paoletti. Sì, chi abbiamo? Allora, ecco, spelling. Allora sì, spelling, MDC. MDC in inglese, ma è impazzito. MDC ci presenta Prendimi per mano. Ascoltiamo attentamente questo pezzo. Prendimi per mano e portami dove non piove, dove è sempre sole, dove sono un girasole, dove il mare può colmare, il vento asciuga ogni pianto, ma è solo fantasia, o cosa vuoi che sia, non lasciarmi ancora qui, tra pensieri e ferite, ma vorrei lasciarmi andare, a volte è meglio non pensare. Nonostante le tue mille promesse, saremo per sempre, oggi sono sola fra la gente. È giovanissima, nata nel 2008, MDC, all'anagrafe Martina de Carne, ecco perché MDC, è una cantante, cantautrice, ballerina, a 6 anni inizia a suonare la batteria e addirittura il pianoforte, poi partecipa a vari concorsi canori finché di lei si accorge Red Canzian, che ne cura la direzione artistica, e poi nella sua scuola ha imparato insomma un po' di più, ha imparato anche diciamo a migliorarsi come cantante, e fa il suo debutto ufficiale nel settembre 2022 come cantautrice alla serata in onore, ricordo, serata d'onore in ricordo di Stefano Dorazio, lo storico batterista ovviamente dei Pooh, e poi lancia sempre nell'aprile 2022 la versione You Are The Reason dei Callum Scott, e poi arriva questo singolo Prendimi Per Mano, che è praticamente il suo singolo di debutto per lei ufficiale. In bocca al lupo per lei, a questo punto sento già in sottofondo la sigla, i members. Pre-sigla, io mi sbaglio sempre. Sì. Saluti innanzitutto Marzia di Gorizia, che è sulla spiaggia e da là ci ascoltava. Ah, però. Simone, Riccardo da Palermo, che ci ringrazia in particolar modo per il brano di Autoradio, e Stefano da Vicenza. Perfetto, allora. Ma naturalmente noi ringraziamo anche tutti coloro che non scrivono, e che sappiamo essere tanti. Eh sì, certo, e poi ce lo dicono magari in un secondo momento, insomma, o lo lasciano detto alla redazione. Grazie, grazie, grazie a tutti. Avete già così appreso dei vari appuntamenti con la nostra emittente. Insomma, domani tutto il concertone del 1° maggio ci sarà ricordato anche dallo spot. Noi vi lasciamo alla programmazione di Radio Città Fujiko. Se volete riascoltare la puntata potete farlo andando sul sito della radio www.radiocittafujiko.it, cartella musica playlist. Certo, è come tutte le domeniche, il cinema e poi le corrispondenze, eccetera, eccetera, la eccetera. Insomma, che dire? La radio è lì che vi aspetta. Noi ci sentiamo puntuali e puntuali fra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza. Quindi, bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti. Bye bye. Ciao. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam